Venezia 75. La mostra del cinema di Venezia, raccontata da Piero Di Domenico. È trascorso il primo weekend della 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e per farcelo raccontare siamo di nuovo al telefono con il nostro Piero Di Domenico. Ciao Piero. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, un saluto a tutti gli ascoltatori, weekend abbastanza ricco naturalmente di proposte e anche di discussioni. L'avevo detto in sede di presentazione prima dell'inizio di questa 75esima mostra di Venezia che era stata lanciata dagli Stati Uniti questa polemica sulla scarsissima presenza femminile nel concorso con una sola regista donna e una polemica che appunto il direttore Barbera aveva rispedito al mittente, ma che è stata in qualche modo rinfocolata proprio ieri dalla presenza del regista francese Jacques Audiard, regista, ricordiamo, Palma d'Oro a Cannes 3 anni fa per Dipan, che ha presentato il suo primo film in lingua inglese, un western, The Sister Brothers, con John C. Reilly e Joaquin Phoenix, ma soprattutto non ha avuto peli sulla lingua nel definire un'aberrazione questa selezione, appunto, che vede 20 registi uomini e una donna. Audiard è stato piuttosto pesante e soprattutto, insomma, ha risposto in qualche modo alla difesa di Barbera dicendo che aveva detto appunto che l'arte non può avere un genere e che quindi le scelte sono state fatte in assoluta libertà, e invece ha detto Diar non è vero. Chiediamoci se i festival hanno un sesso, se i vertici del festival hanno un sesso. La risposta è sì, quindi Odiar è stato decisamente molto pesante nel rinfocolare appunto questa polemica. Un festival che però nel weekend ha mostrato anche altri lati decisamente più edificanti appunto di questa querelle, di questa polemica, in particolare ad esempio con altri due film italiani in concorso. Uno è quello di Luca Guadagnino, il remake di Suspiria, cult movie di Dario Argento di 31 anni fa, film molto distante però dall'originale, tant'è che Dario Argento, che non è a Venezia per motivi di salute, ma abbastanza preso un po' le distanze da questa rilettura, che è una rilettura invece in perfetto stile Guadagnino, con una rarefatta eleganza, decisamente poco horror, ma invece con una riflessione molto più sottile, molto più sotterranea, una rilettura del 77, perché il film è ambientato nel 1977, quindi con tutto quello che poi ha comportato anche comporta la portata simbolica di un anno come questo, e in particolare è un film che fa emergere il lato più anarchico, più sovversivo del femminile. Visto che abbiamo parlato di polemica sul festival di genere, beh, questo film di Guadagnino sicuramente interviene in qualche modo, anche se in modo decisamente più meditato e appunto complesso su questo tema e su una riflessione anche legata in qualche modo al corpo, ispirandosi decisamente e dichiaratamente al cinema di Fassbinder. L'altro film italiano che si è visto nel weekend invece è questo straordinario documentario di Roberto Minervini, che è un autore italiano che da molti anni lavora e vive negli Stati Uniti, in Texas, realizzando documentari di grande forza e appunto in particolare sul tema del razzismo. In questo What You Gonna Do When the World's on Fire, Minervini è un film a cui ha lavorato moltissimo, per moltissimo tempo, come d'altronde il cinema documentario richiede, in questo caso è ancora gli Stati Uniti del sottosuolo, quelli poco raccontati, quelli poco rappresentati, in questo caso la comunità afroamericana di New Orleans e della Louisiana, che naturalmente, in cui ovviamente Minervini prima in qualche modo ha dovuto anche entrare, farsi accettare senza, come al solito, girando al suo modo, cioè senza sceneggiatura né trattamenti, osservando, quindi nel pieno rispetto delle regole del cinema documentario, dove la vera scrittura è il montaggio, e ci racconta appunto uno spaccato appunto dell'America di oggi, che ovviamente si vede poco, di violenza, di razzismo, ricordandoci ad esempio che il padre di Donald Trump faceva parte del Ku Klux Klan e altre amenità di questo tipo. E Minervini in una conferenza stampa ha ricordato una cosa direi molto acuta, cioè che gli tsunami vengono sempre preannunciati dalle piccole onde, e in questo caso il riferimento era anche all'Italia. Ieri è stata anche la giornata del premio dedicato a Gianandrea Mutti sul cinema migrante e dedicato ai cineasti migranti attivi in Italia. Il premio è stato assegnato a Baghia Lankapura, che è un regista nato a Napoli da genitori originari dello Sri Lanka, che ha già realizzato alcuni cortometraggi, ha lavorato come attore nella fiction I Fantasmi di Porto Palo, e che riceverà 18.000 euro per la realizzazione di un film, suo nuovo film, che si chiama La Voliera. This one goes out to the entire world. That's right. Andiamo sempre da Venezia dopo il passato, cioè quello che è accaduto nel weekend, vediamo invece cosa accadrà oggi per quanto riguarda una giornata ancora piena di nomi importanti, perché abbiamo detto è davvero una mostra da un punto di vista degli autori più corposa che mai, e come probabilmente da un po' di anni non accadeva. Oggi tocca in particolare, per quanto riguarda il concorso, a due film molto attesi. Uno è Sunset, del regista ungherese Laszlo Nemes, che ricordo è stato autore, l'autore del Figlio di Saul 3 anni fa. In questo caso il film è ambientato nella Budapest degli anni prima della prima guerra mondiale e con la vicenda di una giovane donna che vuole che insegue il sogno di diventare una stilista e questo percorso però non sarà sicuramente semplice ed è quindi una sorta di film di iniziazione, un percorso, appunto una storia che porterà appunto questa giovane donna a confrontarsi, anche a doversi confrontare anche con questa società europea, mitteleuropea, che sta andando verso il baratro, cioè verso la grande guerra. L'altro film in concorso è quello di Julia Schnabel, regista ma anche artista, che in questo caso ha dedicato un omaggio a Vincent Van Gogh. Il film si chiama Van Gogh at Eternity's Gate ed è un film che racconta ed scandaglia il rapporto della vita degli ultimi anni di Van Gogh, quando Van Gogh appunto ebbe un'attività davvero intensissima con tutti poi i grandi capolavori della sua arte, e naturalmente si sofferma anche sul difficile, travagliato, morboso rapporto con Paul Gauguin. Fuori concorso invece oggi ci sarà anche un action movie che è un genere insomma poco visto finora in una Venezia molto autoriale e poco d'azione, poco hollywoodiana. In questo caso un film interpretato da Mel Gibson nei panni di un poliziotto corrotto, si chiama Dragged Across Concrete, diretto da S. Craig Zahler. Segnalo che oggi è anche la giornata di Zero Calcare. Nella sezione Orizzonti Emanuele Scaringi ha realizzato questo film, La profezia dell'armadillo, che è ispirato ai lavori, ai graphic novel del fumettista più noto e più venduto d'Italia, quindi è un film naturalmente sulla periferia romana che in maniera quasi autobiografica segue la storia e le giornate di un aspirante disegnatore originario di Rebibbia, proprio come Zero Calcare, e quindi è un film che cerca di trasportare sul grande schermo appunto il mondo, l'universo che Zero Calcare ha saputo raccontare come pochi. Però oltre a questo, per concludere, segnalo anche sempre una sezione Orizzonti, un film sulla guerra siriana, The Day I Lost My Shadow di Soudad Kadan, che ci porta appunto nella vicenda personale di una privata, di una giovane madre che lotta per salvare suo figlio nell'inferno della guerra siriana. E poi segnalo anche che ci sono oggi due film di Amos Gitai, il regista israeliano non riconciliato con il suo paese, sempre molto critico con Israele e con la politica israeliana, che oggi presenterà due film, uno è Tramvai in Gerusalemme, in cui fa incontrare religioni, nazionalità differenti su un tram di Gerusalemme, nella Gerusalemme di oggi, e l'altro invece è A Letter to a Friend in Gaza, che è un viaggio nei villaggi palestinesi attraverso le parole e gli scritti di Albert Camus. L'ultimo film di oggi è il documentario El Pepe, una vita suprema, di Emir Kusturica, dedicato a Pepe Mujica, ex presidente uruguaiano, che peraltro nei giorni scorsi è passato anche da Bologna. Venezia 75, la mostra del cinema di Venezia raccontata da Piero Di Domenico.